Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentrovati. Luca Tremolada ai microfoni, Guido Romeo è con lui, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi discutiamo, cerchiamo di capire qualcosa. Il tema è l'energia, il tema è Copenaghen che è sempre più alle porte. Si dice, insomma, si legge che si va verso un fallimento. In questo momento le diplomazie sono al lavoro, forse sono solo schermaglie tra i paesi in via di sviluppo e i paesi ricchi. Noi non lo sappiamo, ma ci siamo chiesti, vero Guido, quale sarà il kilowatt del futuro? Quale sarà l'equazione del kilowatt? Cioè come lo produciamo, quanto ci costerà e come sarà fatto? E questo è un tema molto molto caldo, non solo perché si parla di energia, ma anche perché, insomma, la bolletta energetica italiana la conosciamo, sappiamo quali sono la posta sul piatto. La posta sul piatto a Copenaghen è ancora più alta. Allora, per fare un po' il punto della situazione, sentiamo una scheda riassuntiva e di prospettiva di Guido Romeo. Dal sole, dal vento, dai fiumi, dalle maree e dalle biomasse, ma anche dal nucleare e dai combustibili fossili. I kilowatt che consumeremo nei prossimi decenni saranno più puliti, ma qual è veramente il modo migliore per tagliare costi ed emissioni? Oggi consumiamo circa 15.000 miliardi di watt ogni anno, ma gli scienziati calcolano che nel 2050 dovremo soddisfare una domanda di energia più che doppia. Un'energia che dovrà essere sempre più pulita, perché molti governi hanno annunciato tagli dell'80% delle proprie emissioni di CO2 entro il 2050, e comunque andrà il vertice di Copenaghen delle prossime settimane, sembra chiaro che la tonnellata di CO2 diventerà parte del costo di ogni kilowatt. Quella che si annuncia è una rivoluzione tecnologica, perché oggi 7 su 10 dei kilowatt che consumiamo nel mondo sono ancora prodotti grazie a combustibili fossili, come carbone, olio e gas, mentre energie rinnovabili e nucleare assicurano ciascuna circa un kilowatt e mezzo. L'Italia, che ha il costo medio del kilowatt più alto d'Europa, ha molta strada da fare per cambiare come produce i suoi kilowatt. Il consumo annuale lordo della penisola ammonta a circa 360.000 gigawattora, per il 74% prodotti con combustibili fossili, per lo più importati dall'estero, mentre il 13% arriva da fonti rinnovabili, per lo più l'idroelettrico, ma in misura crescente dalla geotermica, dall'eolico e dal fotovoltaico. Un altro 13% di energia arriva dall'estero, in gran parte prodotto nelle centrali nucleari di Francia e Svizzera. Quindi 7 kilowatt su 10 provengono da combustibili fossili. Noi, prima di entrare nel merito di capire il mix adeguato, quello che potrebbe essere il miglior mix, abbiamo in collegamento Heinz Ossenbrink, capo dell'unità energie rinnovabili del centro europeo GRC di Ispra. Heinz Ossenbrink sarà a Copenaghen. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora, innanzitutto una sua impressione, insomma, siamo alle porte di questo evento. Si va verso un fallimento? Non credo che fallimento sarebbe l'espressione giusta per quello che ci aspettiamo. Nelle ultime due settimane si è mosso abbastanza, diciamo, prima si pensava veramente di un fallimento, che non ci sarà possibile nessun accordo che potrebbe limitare l'aumento della temperatura, ma con l'espressione che abbiamo sentito sia del governo americano sia del governo cinese, ci sono buoni segni che un accordo sarebbe possibile, anche se non è quello che tutto abbiamo quasi aspettato, ma meglio un accordo formale sugli obiettivi di una riduzione che niente. Sono ottimista, Guido. Sì. Tiepidamente ottimista, insomma, non è proprio una vittoria, ma che cosa significa un accordo? Nel senso, è l'inizio di un processo, Ossenbrink, o una non è una tappa, non è un punto di arrivo? Insomma, cioè, non siamo di fronte a un nuovo protocollo di Kyoto, come erano le speranze iniziali, insomma, era di arrivare a degli obiettivi chiari, condivisi, universali, cioè, insomma, capace, insomma, di coinvolgere il maggior numero di paesi del mondo. E, insomma, queste erano le premesse. Adesso andiamo verso qualche cosa che mi pare molto lontano da quelle promesse. Ma io direi, come dall'inizio è stato chiaro, un protocollo post-Kyoto dipende interamente dal comportamento del governo americano e del governo cinese, che prima non c'era. Loro fanno la maggioranza delle emissioni CO2 nel mondo e senza di loro qualsiasi risultato sarebbe inutile. Abbiamo promesse di questi due paesi, adesso dobbiamo vedere in dettaglio come si traducono, su quali valori si basano, come vengono raggiunti e così via. E per quello c'è chiaramente un COP15 di due settimane di trattative molto dure anche. Ecco, noi ci siamo chiesti all'inizio di questa puntata, Guido, dimmi se ho torto, qual è la composizione del kilowatt, cioè come cambierà il nostro consumo di energia, come verrà prodotta, insomma, l'energia dopo Copenaghen. Ecco, lei si aspetta delle grandi novità sotto questo punto di vista? Ma per l'Europa non proprio, perché l'Europa ha quasi già preso l'iniziativa mettendo in opera la grande direttiva che si dice anche il cosiddetto Climate Change Package, vuol dire una serie di legislazione su quale troviamo intanto il 20% riduzione delle emissioni CO2 entro 2020, che poi dopo si dividono in due direttive, uno sull'uso dell'energia rinnovabile, un oggettivo obbligatorio di 20% entro 2020, e l'altro è riduzione del consumo energetico anche di 20%. E queste sono legislazioni che nel momento sono nelle mani dei Paesi membri, che devono produrre un piano di azione. E lì hanno tempo formalmente fino a giugno 2010. Voglio dire, lì in Europa è già quasi una decisione legislativa come arrivare a quel 20% entro 2020. Quindi insomma noi ce la caviamo abbastanza bene da questo punto di vista. Beh, Ossenbrink ha sottolineato un punto molto importante che forse mancava nella scheda, è appunto il risparmio, cioè produrre significa anche consumare, cioè risparmiare, produrre meglio e mettere meno significa anche consumare meglio, quindi c'è un grandissimo lavoro sul quale tra l'altro l'Europa mi sembra posizionata abbastanza bene nel risparmio energetico, cioè dai consumi domestici, dalla coibitazione, dalla... Però insomma non è l'Europa a fare i giochi, per quanto l'Europa pare messa meglio, per quanto ci siano anche delle politiche virtuose, per quanto insomma... No, non è l'Europa a guidare la partita, come diceva Ossenbrink, ma l'Europa sicuramente da dire la sua su quello che è il fronte tecnologico, sullo sviluppo delle tecnologie, perché ricordiamoci che diciamo, il consumo pro capite di kilowatt in Europa è sicuramente più alto di quello pro capite dei cinesi, ma questo ci vuol poco, anche perché loro sono più di un miliardo, ma molto più basso di quello americano, cioè degli altri paesi, dell'altro paese, nell'altra zona, i paesi sviluppati. Tra l'altro stanno già arrivando un po' di sms da parte dei nostri ascoltatori, io ricordo il numero verde 824 0024, gli sms 349 238 6666. Ecco, insomma, in Italia il dibattito si accende molto anche sul nucleare. Ossenbrink, anzi no, poi la pensiamo, la vediamo dopo. Guido, dimmi tu. Mi hai bloccato. No, ti ho bloccato perché abbiamo altri due ospiti che credo siano molto interessanti su questo fronte, anche per diciamo espandere il discorso agli scenari, ai componenti della nostra famosa equazione del kilowatt. Vabbè, allora presentiamoli subito. Abbiamo in linea Emanuele Masetti, economista del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici e Fondazione Enrico Mattei. Buongiorno. Buonasera a lei. Buonasera, giusto, buonasera. Ecco, insomma, la domanda la giro a lei allora. Gli sms ci parlano, insomma, gli ascoltatori si domandano, ma insomma, stiamo facendo bene a iniziare a produrre energia con l'atomo? Ma la questione è piuttosto semplice e complessa allo stesso momento. Se vogliamo veramente realizzare quell'80% di riduzione di emissione dei gas serra che è stato discusso all'Aquila quest'estate durante il G8, e numerosi scenari che sono stati prodotti, ad esempio qui nella Fondazione Eni Enrico Mattei con i nostri modelli di simulazione, fanno vedere che l'energia elettrica dovrà essere praticamente generata con zero emissioni. Non c'è spazio per emissioni nel settore elettrico. Da questo punto di vista, quindi, cioè, l'atomo è perfetto. E qualsiasi tecnologia che permetta di generare elettricità su larga scala con zero emissioni. Il nucleare è certamente la tecnologia che ad oggi presenta la possibilità più immediata di applicazione, però anche le rinnovabili hanno un ruolo certamente da giocare, un ruolo molto importante, e il carbone con la sequestrazione geologica del carbonio. Ecco, saranno queste tre le tecnologie che genereranno elettricità dal 2030 al 2050. Ecco, c'è un mix, qual è il mix che si calcola? Il mix dipende da numerose ipotesi che si possono fare sui costi delle diverse tecnologie, quindi non c'è una risposta univoca. Il nucleare e il CCS sono tecnologie che permettono di coprire bene il carico di base, la domanda di base di energia elettrica, però hanno degli ovvi inconvenienti. Il nucleare per il problema delle scorie, la sicurezza meno, diciamo, il problema delle scorie, e il CCS perché il CCS, ossia il carbone con la sequestrazione geologica del carbonio, è una tecnologia ancora sperimentale di cui si sa veramente poco, quindi affidare ad essa il carico di base dell'energia elettrica è al momento piuttosto un'incognita. Per le rinnovabili ci sono problemi di scala. Va bene il pannello solare sul tetto di un rifugio, di una casa isolata, ma creare il 30-40% dell'energia elettrica con solare e eolico è piuttosto complesso. Perché è complesso? Ci sono problemi proprio ingegneristici, oltre che di costi, che sono ancora elevati. Problemi di connessione con la rete, di distribuzione, perché si tratterà di rivoluzionare le reti rispetto alla situazione presente, dove ci sono pochi impianti di generazione e molti utilizzatori. Quindi mi fa già capire che c'è un problema di carattere tecnologico legato all'efficienza, cioè un problema di rete? C'è sicuramente un problema di rete per le rinnovabili diffuse come il fotovoltaico e l'eolico, poiché i produttori saranno molto diffusi sul territorio, ce ne saranno moltissimi, e i produttori e i consumatori si confonderanno. La famiglia che ha il pannello solare installato sul tetto della propria abitazione è produttrice e consumatrice allo stesso momento. Certo. Quindi c'è bisogno di una rete che vada nelle due direzioni, non solo in una direzione, dall'impianto a carbone alla famiglia, ma che c'è bisogno di una rete che costruisca una vera e propria griglia di trasmissione dell'elettricità a livello locale e nazionale. Ecco, Massetti ha messo appunto il dito sulla piaga, se vogliamo, o sulle tecnologie, che è un po' la grande incognita. Io su questo punto volevo presentare il nostro terzo ospite, Mario Gamberale, che è responsabile per le energie rinnovabili del Kyoto Club. Il Kyoto Club, ricordiamo, è un gruppo, un club, un consorzio di enti, università, aziende che guardano appunto alle energie rinnovabili, a come produrre meglio e con meno emissioni. Buongiorno Gamberale. Buongiorno a tutti. Sono un po' arrabbiati coloro che credono nelle energie gamberali di sentire delle energie rinnovabili, di sentire tutti questi problemi di carattere tecnologici, che poi di solito i problemi di questo tipo si risolvono con investimenti. Adesso stavo leggendo un po' di SMS e tutti ricordano che l'Italia è la terra del sole. Parte vero, poi la cosa curiosa è che la Germania, che sicuramente ha un po' meno sole di noi, ha sicuramente più pannelli fotovoltaici dell'Italia. Questo è un tema legato alla cultura, alla tradizione ambientale dei paesi del nord Europa, che insomma, hanno i cittadini, coloro votano, spinto politiche verdi negli ultimi 20 anni, e questo come frutti ha avuto lo sviluppo di leggi e incentivi che hanno oggi dato la leadership alla Germania, all'Austria, ad altri paesi del nord Europa nel settore rinnovabile e nell'efficienza energetica. Dal punto di vista della rete, che è il tema sicuramente più delicato nello sviluppo di questo settore nel nostro paese, è chiaro che la rete è nata con un'idea di funzionamento pensato per grandi poli di produzione centralizzata e servizio e fornitura di energia elettrica a utenze, spostando chiaramente le infrastrutture soprattutto nelle aree dove queste utenze assorbono maggiori quantità di potenza e energia, per cui il nord Italia e il centro Italia. Oggi con lo sviluppo delle fonti cosiddette nuove rinnovabili, in particolare eolica e solare, ci si è resi conto che queste fonti sono soprattutto disponibili al sud, dove... Quindi mi faccia capire, cioè c'è una rete che era stata costruita, è stata concepita non tenendo conto di quello che è il modello delle energie rinnovabili, dove il consumatore è a sua volta anche produttore di energia ed è anche un consumatore di piccolissime dimensioni, per cui insomma la logica porterebbe a vedere un modello di rete con tanti piccoli punti di produzione, bassissima energia, che però se collegati correttamente possono portare a economie di scala, dico bene? Assolutamente, assolutamente, e oltre a questo le reti nel sud Italia non sono adeguate per assorbire le grandi potenze aleatorie e non programmabili dei grandi parchi eolici e delle grandi centrali fotovoltaiche. Quindi c'è un altro paradosso, cioè là c'è il sole e il vento, però non riescono a convogliare l'energia, no? Mi spieghi bene? Sì, esattamente, cioè oggi un agricoltore o un'industria che volesse realizzare un impianto eolico o fotovoltaico da qualche megawatt, neanche potenze particolarmente importanti, si trova spesso di fronte alla risposta del distributore o di Enel Distribuzione o di Terna, a seconda della potenza richiesta, in allaccio di impossibilità ad allacciare l'impianto magari nella cabina elettrica presente sul proprio terreno o sulla propria azienda, e in qualche caso gli viene proposto un punto di consegna a decine di chilometri dal sito dove dovrebbe installare l'impianto. Questo perché le reti non sono assolutamente adeguate per assorbire le potenze oggi disponibili grazie ai rinnovabili. Ma ecco, io volevo, fatta questa premessa sulla grid e sulle quelle che sono poi le smart grid, che sono importantissime, volevo fare una domanda però un po' collettiva a tutti e tre i nostri ospiti e fargli fare un po' un esercizio di forecasting. So che i ricercatori, che sono persone serie, non amano questi esercizi, ma oggi magari vi torturiamo un po'. Cioè, qual è il mix del kilowatt del futuro del 2050 e quali sono le condizioni a cui si può arrivare, tenendo presente un po' quello che diceva Ossenbrink all'inizio, cioè che noi ci muoviamo verso questo orizzonte del 2050 con l'obiettivo di mantenere, cioè non solo di mantenere le emissioni al di sotto di una certa quantità, ma di mantenere l'aumento di temperatura nel cambiamento climatico entro questi famosi 2 gradi centigradi, che è quello che è considerato più o meno accettabile come impatto economico e sociale. Cioè, la domanda quindi è: come la vedete, da questo 70% di fossile, un pizzico nucleare, una spruzzatina di rinnovabile idroelettrico, come ci muoviamo e come cambierà nei prossimi anni? Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Insomma, noi ci stiamo, forse non l'abbiamo sottolineato prima, ma noi insomma ci stiamo domandando la composizione del kilowatt del futuro, perché le scelte che oggi facciamo in termini di produzione di energia non sono scelte che si possono cambiare dall'oggi al domani. Cioè, ne parlavamo prima con Guido, insomma, costruire oggi una centrale nucleare è qualcosa che ti porti dietro fino al 2050, per cui insomma capire come sarà composto il kilowatt, il mix energetico domani ha una sua importanza. Infatti vorrei partire proprio da questo a chiedere il parere di Mario Gamberale, ingegnere, ricordiamo, e coordinatore del gruppo di fonti rinnovabili del Kyoto Club. Ma dunque, il governo nel 2007, rispondendo alle decisioni del Parlamento europeo citate da Ossenbrink, del taglio del 20% delle emissioni e di promuovere il rinnovabile al 20% sui consumi finali, ha dato uno scenario al 2020 di un mix abbastanza con un certo grado di dettaglio. Il quadro che esce fuori in pratica prevede per quella data lo sfruttamento di tutte le rinnovabili disponibili, quasi avvicinandosi al potenziale di tutte le fonti, quindi lo sfruttamento del poco idroelettrico residuo, l'eolico passare dall'attuale 23% circa del potenziale fino al suo massimo sfruttamento di circa 16.000 megawatt. Per il fotovoltaico, il solare, passare dagli attuali 500 megawatt installati a circa 8.000 completare lo sviluppo delle biomasse raddoppiando l'attuale potenza installata con cifre analoghe il raddoppio del geotermico. Ma Gamberale, ma ci sono anche tecnologie che ad oggi non vediamo, per esempio il solare, lei dice fotovoltaico, ma c'è anche il solare termico, il solare concentrazione. Queste hanno uno spazio in questi orizzonti a cui stiamo guardando, o ancora le vede come non, come dire, commercializzabili? Cioè, Guido si sta domandando, non è che stiamo ragionando su tecnologie vecchie in questo momento per poi costruire quello che sarà il futuro energetico di domani? Ma i piani temporali sono due: uno, il 2020 è l'oggi, quindi è quello con cui ci si confronta per poter rispondere agli obiettivi europei. Il 2050, che è il domani a breve, sicuramente ha nel paniere delle possibilità altre opzioni. Tutte le tecnologie solari avranno un ruolo, la conversione diretta della reazione solare avrà senz'altro un ruolo importante, soprattutto alla luce delle curve di apprendimento delle singole tecnologie, che in particolare sulle tecnologie a concentrazione, il fotovoltaico a concentrazione, il solare termodinamico, potranno rappresentare una parte importante del mix. Sicuramente al 2050 il nucleare avrà un ruolo, probabilmente non col nucleare di oggi, ma con le generazioni future. Significa? Cioè che c'è un passaggio di generazione sul nucleare, quindi bisogna stare un po' attenti a quale centrale si va a costruire? Sì, attualmente i problemi citati dal collega in particolare le scorie, i costi e il decommissioning oggi sono tre macigni che pesano sullo sviluppo del nucleare di generazione di seconda e terza generazione. Per poter parlare seriamente di nucleare bisogna cercare di spingere sulla ricerca affinché questi tre problemi vengano risolti. Questo potrà avvenire soltanto tra qualche anno. Attualmente è un'opzione rischiosa dal punto di vista economico e rischiosa dal punto di vista gestionale. Emanuele Masetti, ricordiamo, economista del Centro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, anche non sia sfuggente, anche per lei sono questi i termini della situazione? Sì, a grandi linee la situazione è questa. È importante capire che al 2050 il costo della generazione dell'energia elettrica sarà in grande parte spiegato dal prezzo della CO2, ossia dalla carbon tax. Basti pensare che per il carbone il costo industriale di un kilowattora si aggira oggi intorno ai 5-6 centesimi a kilowattora. Se noi inseriamo gli scenari di carbon tax per il 2050 che portano alla riduzione delle emissioni dell'80%, e questo costo aumenta di circa 8-9 volte, si arriva a circa 35-40 centesimi al kilowattora, che è un valore che porta il carbone tradizionale assolutamente fuori mercato. Quindi il costo dell'energia elettrica futura sarà il costo della CO2 che verrà emessa, non più il costo del combustibile o dell'impianto. Pertanto si dovranno fare investimenti in impianti che hanno emissioni praticamente nulle, e nel breve periodo 2020-2030 c'è sicuramente un ruolo per il gas naturale, che ha emissioni molto più basse del carbone, ma per il 2050 numerosi scenari sotto anche una serie di ipotesi non particolarmente restrittive mostrano tutti la stessa cosa, che ci sarà un mix che può essere un 30-40% di rinnovabili e il restante 60% diviso più o meno equamente fra nucleare e carbone con la sequestrazione geologica del carbonio. Perfetto. E questa tecnologia funzionerà. Quindi quello che lei sta dicendo, Massetti, è che l'importanza, diciamo, il concetto importante qui è che non si guarda più al costo di produzione, cioè quanto gas mi serve per fare un megawatt, un gigawatt ora, ma ho un'equazione molto più articolata, composita, in cui entra anche la mia tonnellata di CO2. Quindi pagheremo in base a quanta anidride carbonica produciamo, per cui insomma l'anidride carbonica entra nel nostro conto economico, cioè entra nella nostra bolletta in un certo senso. Resta da vedere anche forse, ma forse questo lo prende già in conto in qualche modo, perché il nucleare non produce CO2, certo, ma nei piani, nei business plan che fanno, prendono in conto anche lo smaltimento delle scorie. Quindi il concetto tu paghi per quanto consumi e quanto sporchi diventa abbastanza pervasivo in questo senso, no Massetti? Sì, si tende a includere nei costi della costruzione degli impianti anche i costi della gestione delle scorie e del decommissioning, e nonostante questi siano elevati, quando lo scenario di prezzo della CO2, la carbon tax, diventa molto elevato, si parla di qualche centinaio di euro rispetto al 12-13 euro a tonnellata che abbiamo oggi, e a quel punto il nucleare diventa economicamente molto vantaggioso rispetto alle fonti fossili. Chiarissimo. E ha degli indubbi vantaggi sulle rinnovabili che, come ho menzionato prima, comunque ci si aspetta che crescano ad un ritmo veramente fortissimo, perché si tratta di passare da circa Anche 2-3%. Perché ce n'era pochina, ce n'erano pochine, per cui insomma la crescita è più forte. Io direi di dare adesso la parola agli ascoltatori, perché abbiamo Demetrio da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Io ho udito tutte queste prospettive che ci portano al 2050. Sì. Adesso siamo a 41 anni prima, e i problemi che abbiamo per quanto riguarda i consumi delle famiglie, i consumi dei condomini, secondo me rientrano chiaramente nella bolletta energetica nazionale e contribuiscono alla produzione di CO2. Però non c'è una politica che dica prendo atto di questi consumi, che forse sono una percentuale minima rispetto alla bolletta energetica nazionale, però sono importanti perché contribuiscono alla salubrità dell'aria delle città. Io vivo nella città di Roma e qui ancora ci sono impianti che vanno a carbone, quello che si faceva in montagna, il carbone quello. Anche a Milano. Per cui dico, c'è un momento politico per dire sì, va bene, nel 2050 sarà quello che sarà, ma siccome viviamo nel 2009, 10, 11, 12, non c'è un provvedimento da prendere per costringere questa parte dei consumi a restringersi? Economizzare? È chiarissimo, insomma giriamo la domanda alla politica. In questo momento noi non siamo parte, non siamo decisori pubblici, non sappiamo cosa rispondere, però insomma queste trasmissioni dovrebbero avere anche questo obiettivo. Ma forse in maniera un po' perfida potremmo girare la domanda a Heinz Ossenbrink, che in fondo non è un politico, non è un decisore, ma sarà a Copenaghen e quindi sarà parte di un processo decisionale in senso largo. Sì, grazie. Siamo anche come missione oggettiva del nostro centro di ricerca direttamente collegati con le politiche a Bruxelles. Giustamente il signore ha detto che il risparmio energetico è molto importante, noi chiamiamo addirittura aumentare il rendimento e le cose stanno succedendo, c'è una serie di politiche già da anni e continueranno. Prendo come due esempi, sapete che dal 1° settembre ha cominciato di finire con le lampade normale. Quando questo programma finisce fra 2 anni, questo è l'equivalente di 4 centrali nucleari che quasi non si produce più. Oppure dal 1° gennaio prossimo anno vedremo che tutta l'elettronica che si compra a casa, televisore, computer e così via, non possono consumare più di 1 watt quando non sono accese e così via. Ci sono anche c'è la seconda fase adesso della direttiva sul rendimento delle case, diciamo dell'isolamento, sia per riscaldamento sia per raffreddamento. Quindi a livello europeo qualche cosa si sta muovendo, cioè non solamente qualche cosa, ma l'obiettivo di ridurre anche il consumo di 20%, che va insieme con il rinnovabile 20%, è preso molto molto serio. E chiaramente per 2020 abbiamo già un programma, quasi un calendario, cosa succede quando, per tornare a questa domanda, che mix di rinnovabili avremo, quello sappiamo abbastanza bene, o più o meno sono scenari abbastanza chiaro di arrivare al 35% dell'elettricità con rinnovabile e di più di 20% per riscaldamento. 2050 certamente ci possiamo risparmiare quanto vogliamo, ma dipende molto dal sviluppo della popolazione e della crescita economica. All'inizio della trasmissione credo giustamente è stato detto ci aspettiamo, ecco, un raddoppiamento del consumo. Awesome, perfetto. Nova Lab 24, puntata dedicata all'energia. Siamo in chiusura, ma abbiamo un'altra telefonata di Renato dalla provincia di Roma. Sì, buongiorno. Un attimo abbassiamo la radio, sì. Allora, io chiamo soltanto per questo, io sono amministratore al Comune di Valmontone. Sì? Proprio il Comune di Valmontone si è reso protagonista di un bando dal gennaio 2008 per dare dei terreni comunali, e quindi cedere di superficie a società che vogliono realizzare impianti fotovoltaici. Abbiamo avuto delle belle offerte, quindi oltre che dare un contributo a quello che è il tema oggi della trasmissione, è anche un contributo importante per le casse degli enti locali che sono sempre più sofferenti. L'unico problema che si incontra, purtroppo, e questo lo voglio sollevare, è quando poi si passa alla base, al completamento della fase istruttoria, ovvero le autorizzazioni regione, provincia, conferenza servizi, il ministero. Voglio dire, qui se veramente dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione, dovremmo snellire un po' questo tipo di procedure, quindi passare la palla totalmente agli enti locali, che sono tra l'altro responsabili del territorio, quindi responsabili della propria delle banche, delle proprie scelte, insomma, ecco. Grazie, quindi, Renato, anche perché questo è un tema enorme, anche perché noi abbiamo una situazione di questo tipo dove abbiamo gli incentivi tra i più alti d'Europa per le energie rinnovabili, poi però i problemi nascono nel momento in cui si cominciano a richiedere le autorizzazioni, cioè la burocrazia, insomma, sta un po' imbavagliando. Verissimo, però ricordiamoci che sulla carta siamo tutti a favore delle scelte per l'energia pulita, ma poi quando si va a livello locale nessuno vuole un pilone di un generatore eolico sopra casa sua. C'è anche, come dire, una sindrome NIMBY per le rinnovabili, certo, come abbiamo visto, certo, molto bene in Germania. Massetti accennava agli impianti CCS, cioè di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. In Germania, nel nord della Germania, si sta pensando, si sta preparando a fare il primo impianto su grande scala, e beh, la gente lì non è molto contenta, anzi ci sono gruppi molto attivi che protestano e cercano di impedire l'avanzamento dei lavori. Ecco, noi l'unica promessa che possiamo fare è quello che continuiamo a trattare del tema dell'energia, non solo in vista di Copenaghen, ma anche cercando di sentire il più possibile gli amministratori, anche perché poi sono loro che realizzano le cose e si trovano poi, insomma, alle strette, in difficoltà. Mentre io saluto Guido Romeo, ringrazio Ossenbrink, Masetti e Gamberale per aver partecipato alla trasmissione e ci sentiamo domani alle 4.